Era l'ultima segnalazione per quel che riguarda la rassegna stampa. Ci sono ancora tanti articoli, ma insomma il tempo è quello che è, e poi leggete i giornali, che è sempre un piacere. Ricordo il sondaggio. Il sondaggio è quello del TAR della Puglia, che ha deciso di sospendere la provincia di Taranto perché non ci sono donne scelte nell'esecutivo. Alle 8:18 minuti, eccoci qua con 24 mattino e con l'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Buona giornata a tutti. Ecco il microfono. Una volta tanto non era colpa mia. Il nostro Peter, che salutiamo in regia. Il caffè che manca. Era partito. Glielo dobbiamo portare. Un mignolo sul microfono. Allora, oggi parliamo di case, di prezzi delle case in situazioni particolari, possiamo dire così. Tu lo sai che i nostri ascoltatori sono degli affezionatissimi del mattone e cercano ogni occasione possibile per poter investire appunto nella casa. D'altronde abbiamo visto anche quanto negli ultimi anni tante famiglie si sono indebitate, a volte facendo anche delle scelte di mutuo non proprio corrette, per potersi guadagnare il diritto alla casa dei propri sogni. Allora oggi in realtà noi esploriamo un po', come dire, un mercato di nicchia, perché andiamo a vedere come va il mercato immobiliare in determinate città quando ci sono eventi straordinari. Allora intanto saluto chi ha, come dire, elaborato un'indagine di questo tipo. Daniele Mancini è l'amministratore delegato di Casa.it. Mancini, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora, volevo ricordare che Casa.it è un portale immobiliare molto grande, mi risulta che sia il più importante d'Italia, nel senso che ha 1.300.000 utenti unici, per cui, tanto per così spiegare ai nostri ascoltatori, che stiamo parlando di un osservatorio che ha un'idea del mercato abbastanza precisa e abbastanza completa. E allora, da che cosa partiamo? Partiamo da Milano, che in questi giorni è in fermento perché è partita la settimana della moda, che si concluderà il 30 settembre, più di 180 collezioni dei più grandi stilisti italiani e stranieri, un centinaio di sfilate, dei nomi più prestigiosi della moda nazionale ed internazionale. Tutto questo che cosa ha comportato per i prezzi delle case, Mancini? Siamo andati proprio ad analizzare il costo e il prezzo di una casa a Milano nelle aree oppure nel quadrilatero della moda, ed è venuto fuori in effetti che oggi per comprare casa a Milano, se parliamo di un piedaterra, di una casa circa di 80 metri quadri, ci vogliono dai 900.000 euro al 1.000.000 di euro per acquistare casa, rispetto poi alla media di Milano che è sui 7.500-10.000 euro a metro quadro, è molto più alta perché stiamo parlando di ben 12.000 euro a metro quadro. Quindi la zona del quadrilatero è un po' più costosa rispetto alle altre zone milanesi. Ecco, se io invece volessi andare ad affittare una casa a Roma durante il Festival Internazionale del Cinema, lì quanto spenderei? E in relazione, diciamo, invece al trend dei prezzi nel corso dell'anno? Allora, se parliamo di affitto, a Roma spenderemo sui 2.500-2.800 euro per affittare un appartamento di 80 metri quadri, mentre se volessimo comprare una bella casa a Roma, nel centro storico, parliamo almeno 80 metri quadri, almeno da 700.000 euro per un appartamento per un piedaterra, per un appartamento, un bilocale da 80 metri quadri. Cosa succede invece a Firenze quando c'è Pitti Immagine Uomo? A Firenze per affittare un appartamento si spende sul 1.700-1.800 euro per un appartamento, mentre andando a vedere i prezzi parliamo nella zona centro Duomo, sono un po' più economiche rispetto a Milano, rispetto a Roma, e si parla sui 450-500.000 euro per un bel appartamento di 80 metri quadri. Chiudiamo con un'altra città che pure ospita ogni anno un evento straordinario, il Festival del Cinema di Venezia. Venezia in questo periodo movimenta il mercato immobiliare in maniera più sostanziosa rispetto al resto dell'anno? Ecco, Venezia negli affitti siamo un po' più bassi. Venezia ha un appartamento nelle zone centrali, si va sui 1.500-1.700 euro per un appartamento in affitto, mentre dobbiamo spendere sui 700-750.000 euro per un appartamento a San Marco. Lido costa un po' meno il Lido rispetto a San Marco, ma i prezzi sono lì. Allora, noi abbiamo citato le città. Mancini, perché avete fatto queste indagini? È abbastanza naturale che in determinati momenti dell'anno, soprattutto il mercato degli affitti, perché perché poi non è che a Milano uno compri una casa una settimana prima dell'avvio della settimana della moda, appunto, per partecipare a questo evento, però è abbastanza naturale che eventi straordinari portino il mercato immobiliare a lievitare. Io non so, tra qualche anno per esempio a Milano avremo l'Expo, questo secondo lei come si potrà riflettere sull'andamento dei prezzi delle case dell'area a nord di Milano? Ma sicuramente stiamo già vedendo che i prezzi riescono a tenere un po' di più. Se andiamo proprio a vedere nelle zone centrali, nelle zone dove avvengono questi eventi, vediamo che i prezzi tengono rispetto alle zone periferiche. Nelle zone periferiche invece purtroppo anche quest'anno abbiamo assistito a una perdita del valore degli appartamenti, a volte dell'8, del 9, del 10%, mentre quando andiamo nel centro o andiamo negli appartamenti di pregio la perdita è stata del 2, di 2 punti, di 3 punti. Questo è importante, l'abbiamo anche cercato di spiegare, abbiamo visto che in effetti nella periferia è dove si soffre di più. Oggi la difficoltà a ottenere un mutuo, la difficoltà, mentre prima si riusciva a ottenere anche dei mutui al 100%, oggi invece è anche duro ottenere mutui finanziati all'80%, e questo ha fatto un po' perdere il valore degli appartamenti in periferia. Quando invece andiamo sul centro non c'è problema. Ecco, infatti questa è una questione molto interessante, perché praticamente chi può permettersi di affittare o acquistare case di questo taglio anche economico è, come dire, una fetta di popolazione che non conosce crisi. Mancini. No, assolutamente, anzi noi stiamo vedendo che sì, continuano a scendere i prezzi, ma si registrano già primi segnali di ripresa in diverse città, ma un po' in tutta Italia. Ce lo spieghiamo perché sicuramente oggi c'è qualcuno che si è messo in borsa, quindi c'è una maggiore liquidità presente nei portafogli proprio dei risparmiatori italiani, così come si pensa che gli effetti dello scudo fiscale possano un po' aiutare a far risalire il mercato immobiliare. E poi oramai diverse persone, i consumatori, iniziano veramente a pensare che più di così i prezzi non possono scendere, e quindi sta ripartendo un po' il mercato immobiliare delle compravendite. Almeno questo, come dire, ciò che state osservando voi dal vostro portale adesso, a prescindere dal fatto, non so, magari c'è stato anche qualche straniero in questi giorni che è andato a caccia di qualche annuncio per affittare un piede a terra a Milano per assistere alla settimana della moda? Come mai vi siete incuriositi di questa tendenza? Oramai internet, io dico che un po' sta sostituendo la carta stampata dal punto di vista degli annunci. Immagini che nel nostro sito ci sono più di 600.000 annunci di appartamenti, 600.000 annunci di affitti e di vendite, e il sito è visitato, sì, come diceva, da 1.300.000, 1.400.000 persone al mese, ma anche dall'estero. Sicuramente internet è molto più semplice, perché uno entra nel sito e vede i video, le foto, le descrizioni, molto più completa, e quindi sì, anche dall'estero è molto più semplice affittare casa. Io ringrazio Daniele Mancini, amministratore delegato di casa.it, anche questo insomma è un osservatorio molto interessante per fare una valutazione di come sta andando il mercato immobiliare. D'altronde gli italiani, lo abbiamo detto più volte, sono molto affezionati a questo tipo di investimenti in un momento in cui c'è ancora grande incertezza rispetto alle altre opportunità di investimento. Forse il mattone continua, anzi torna a rappresentare la scelta ideale per molti di noi, anche se effettivamente abbiamo capito che poi fare questa scelta di investimento in determinate località e in determinati momenti può rappresentare la scelta non tanto giusta, ma forse in prospettiva lo può rappresentare anche. Grazie a Mancini, io ritorno a ridare la linea ad Alessandro Milano. Eccoci qua, ricordiamo Salva Danaio alle 12. Costi dei conti correnti, ritorniamo lì sempre, la lingua batte dove il dente duole, come si dice, fa sempre male quel dente là, non lo so perché. Quello del conto corrente. Esatto. Eccoci alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora le notizie in primo piano. Al G20 in corso a Pittsburgh è stato raggiunto un accordo per limitare i bonus ai banchieri. Lo riporta una bozza della dichiarazione finale. Accordo trovato anche per considerare imperativa la lotta contro il protezionismo. Quasi 500 milioni di euro di capitali detenuti all'estero illegalmente. Questo è il frutto delle ultime operazioni della Guardia di Finanza nell'ambito di 4 indagini. Le fiamme gialle hanno messo nel mirino, secondo l'agenzia ANSA, un pilota di Formula 1 che dal 2006 al 2008 ha trasferito la propria residenza dall'Abruzzo, prima in Inghilterra e poi in Svizzera, continuando a comprare barche e case in Italia. Nel mirino anche un campione del ciclismo. Torna la paura all'Aquila. Ieri due scosse, la più forte di magnitudo 4.1 sulla scala Richter, hanno fatto rimpiombare le popolazioni abruzzesi nella paura. Nessun danno, molti però hanno passato la notte fuori casa. Oggi le scuole sono regolarmente aperte. Infine, per il calcio, è finito 2-2 Genoa-Juventus, il posticipo della quinta giornata di campionato, e con questo punto i bianconeri raggiungono l'Inter a 13 punti in testa alla classifica. E allora alle 8:34 minuti è il momento del nostro sondaggio. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Su radio24.it o ilsole24ore.com sono già molti coloro che hanno votato. Ci vogliamo chiedere questo. Ieri avete sentito anche in GR24 il Tribunale, il TAR della Puglia, ha sostanzialmente intimato alla provincia di Taranto di, entro 30 giorni, di nominare anche alcune donne, o una o più donne, nella giunta. Altrimenti la giunta non vale. La giunta è caduta. 30 giorni di tempo perché tutti uomini non va bene. Hanno accolto il ricorso di un'associazione che... insomma, ha fatto ricorso contro una giunta tutta al maschile, è un modo per parlare anche di quote rosa. Che ne pensate di questa decisione? Saluto il presidente Giovanni Florido, buongiorno. Buongiorno. Presidente della provincia di Taranto, eccolo qui che ha combinato di tutto. Eccolo, il maschilista, diciamola tutta, il maschilista presidente Florido. Beh, questo è un'accusa che non mi può essere rivolta. Io sono un presidente rieletto, nella mia giunta precedente c'erano due donne, ci sarebbe stata anche in questa se nella formazione della giunta, avendo io scelto un criterio di dialogo con i partiti e di accettazione delle loro proposte, qualora mi fossero state gradite, l'ultimo giorno, il giorno prima del consiglio, due giorni prima del consiglio, mi sono reso conto che non c'era una donna nelle indicazioni dei partiti, che mi andavano tutte bene, nonostante me ne aspettassi almeno due. Lo dissi subito all'insediamento, in conferenza stampa e in consiglio, e avrei adeguato. Questa volta la giustizia è arrivata velocemente. Mm. Però sì, perché lei ha detto, la sentenza mi sta bene così, insomma, ci adeguo. Assolutamente, ma guardi, l'articolo 48 del nostro statuto, che poi la ragione per cui il TAR ci ha intimato di rispettare, appunto perché non c'è una previsione legislativa nazionale. Noi abbiamo adeguato, secondo il testo unico sugli enti locali, il nostro statuto provinciale, che recita che il presidente della formazione della giunta deve favorire la presenza in giunta di entrambi i sessi. Quindi è un'accusa che io avrei fatto, l'ho dichiarato e agli atti dei giornali. Alla ripresa settembrina i problemi ci hanno un po' superato, è arrivato il TAR. Nel frattempo è arrivato il TAR. Devo dirle che noi ci siamo difesi davanti, quando questa associazione ha fatto il ricorso, non perché pensavamo il legittimo ricorso, tutt'altro, ma perché abbiamo voluto portare al TAR queste motivazioni, che quindi non c'era un atteggiamento di discriminazione. Sì. Peraltro la mia storia è una storia di battaglia per i diritti. Poi sulle quote rosse possiamo discutere. Adesso ne discutiamo, ci sono anche altri ospiti che adesso saluto. Prima però, Presidente, anche questo, lei è del Partito Democratico, Vittoria Franco del Partito Democratico a livello nazionale ha detto insomma dobbiamo tirare le orecchie, ma come, proprio noi di sinistra che ci battiamo? Per due mesi in una giunta non c'è una donna, non è a mio avviso la fine del mondo. Il problema era giudicare se io l'avessi poi cambiata o no la giunta. Tutti sapevano che eravamo in attesa di cambiare alcuni assetti di giunta, quindi poi capisco perfettamente che la dinamica che si è innescata è una dinamica che fa notizia, soprattutto perché, guardi, in Puglia il TAR aveva già annullato, lì si è azzerato la giunta di Molfetta, dove il sindaco Azzolini, parlamentare della PDL, si è rifiutato di adeguarsi, sta resistendo, no? E quello non è andato, io ho avuto l'onore di essere in prima pagina di TG1 e TG2. Perché lei dice io non resisto, io mi adeguerò. No, ma non resisto perché la mia storia è una storia di rispetto della norma di parità. La mia vecchia giunta ha avuto due donne, di cui poi sono rimasta con una sola perché una è diventata parlamentare del Partito della Rifondazione. E stavolta i partiti non gliel'hanno segnalati. Però stia con noi, Presidente. Voglio salutare l'onorevole Gabriella Carlucci, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno del a voi. Popolo della Libertà, e anche voglio salutare il senatore Carlo Giovanardi, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Sottosegretario, buongiorno. Perché lei ha fatto mistero in passato, no, non ha fatto mistero di dire alle quote rosa no, ma ci vengo subito da lei. Onorevole Carlucci, lei che ne pensa? Insomma, bene, bene ha fatto il TAR? Cos'è un embrione di quote rosa per via giudiziaria? Allora, il TAR ha fatto benissimo. Anch'io in linea di principio sarei contro le quote, però in questo caso abbiamo visto come l'adeguamento dello statuto provinciale al testo unico che regolamenta le elezioni, quindi ha obbligato di fatto il presidente Floyd a inserire in questo statuto una partecipazione femminile, senza questo adeguamento, quindi alle quote rosa, oggi non saremmo discutendo di nulla. Quindi sono felice che sia successo questo. Trovo però che il problema è alla radice, ovvero il problema è nella testa dei partiti, nella testa di coloro che schiacciano i bottoni, sono nella stanza dei bottoni, nei partiti, perché è lì che bisogna coltivare, permettere alle donne di partecipare alla vita politica. Non è vero, come ho letto, come sento, che le donne si tirano indietro, che non sono pronte, non è affatto vero. Io tra l'altro ho un osservatorio privilegiato perché sono eletta in Puglia, quindi posso parlare in questo momento proprio a ragion veduta, e in questi anni, io sono eletta in Puglia dal 2001, ho cercato proprio di promuovere le donne e ne ho trovate tante, segnalate tantissime, tra l'altro donne che fanno politica quotidianamente, costantemente, ma non riescono ad avere un ruolo rilevante perché il partito non permette di averlo, perché io dico ruolo rilevante, cioè la gavetta politica si fa all'interno dei partiti con ruoli di responsabilità all'interno del partito. E che c'è? C'è una resistenza maschile? Lei dice, c'è una fortissima resistenza maschile anche di fronte a donne capaci, competenti, credibili. Io sto facendo adesso la mia battaglia personale per la prossima tornata delle elezioni regionali. Ho sottoposto sia al ministro Fitto, che per noi è il punto di riferimento in Puglia, sia al coordinatore e vice coordinatore regionale della Puglia, una serie di curriculum di altissimo profilo, di donne che provengono da tutta la regione Puglia, e sono convinta che questa volta non potranno sottrarsi al loro ruolo di scegliere delle persone competenti, e qui non si parla di donne e uomini. Io ho iniziato di competenze a carattere generale, cioè sono come o meglio di altri uomini che possono ben figurare quindi in una lista per le elezioni regionali e in una giunta regionale. Però lei dice resistenza. Io voglio andare dal senatore Giovanardi. Senatore, ce l'ho qui, un'intervista sua del 19 novembre 2005 al Corriere della Sera. Me la sono tenuta perché era illuminante. Era il periodo in cui credo ci fu un contrasto in Consiglio dei Ministri, il ministro Prestigiacomo allora che scoppiò in lacrime, sulla questione delle quote rosa. Lei disse, ma le quote rosa, il problema è semplice, alle donne del nostro paese mica gliene frega niente della politica, tutte le volte che io vado a cena e parlo di politica con donne si annoiano a morte, questo è il problema. Lei conferma che questo è il problema? Io vedo che le donne stanno diventando la maggioranza ovunque ci sono concorsi, ovunque ci sono posti di responsabilità, per esempio nei prefetti, nelle prefetture, nelle amministrazioni statali, nella magistratura, nella medicina. C'è un'evoluzione storica tale per cui, essendo capaci, volonterose, impegnate, stanno mettendo in minoranza anche nelle situazioni di massima responsabilità i giovani. Anzi, forse si porrà il problema, in prospettiva basta vedere gli esiti dei concorsi, di un riequilibrio di pari opportunità anche per i ragazzi rispetto alle ragazze. C'è un ritardo che verrà coperto naturalmente anche nella politica, per una questione storica di attitudini ad affrontare la politica che il Parlamento ha affrontato, dando ragione a me, perché governo e Parlamento hanno modificato la Costituzione nel senso, come diceva la Carlucci, di affrontare tutti quei meccanismi che possono favorire la partecipazione delle donne alla politica e, favorendo la partecipazione delle donne alla politica, favorire anche l'assunzione di responsabilità. Favorire, ma quote, quote rosa no. Fanno succedere una cosa molto curiosa, perché mentre si parla in teoria di rispettare i diritti di tutti, lì ci sarà un signore che verrà buttato fuori dalla giunta in quanto uomo. Mentre si parla di questo è vero, bisogna far posto, bisogna fare una discriminazione concreta, perché un signore che ha un nome, un cognome, solo perché di un determinato sesso, in questo caso uomo, sarebbe viceversa se fossero state tutte donne, perde il suo incarico e il suo partito, che aveva indicato lui, perde il diritto di indicare una persona di fiducia per mettere una donna chiunque. Hai capito, onorevole Carlucci, ha capito, il presidente Florido, ci sarà una discriminazione nei confronti di un uomo adesso, onorevole Carlucci. Non è teorica, dice adesso ci sarà una discriminazione nei confronti di un uomo concreta, un uomo, un assessore della provincia di Taranto scelto dai partiti, dovrà far posto, uno o più uomini, dovrà far posto a una donna. La legge provinciale di istituzione della giunta provinciale prevede quello, sì, cioè. Però sai, è stato nominato, dice. Le donne sono state discriminate fino a questo punto. Sì, questo è vero. Presidente Florido, lei dovrà fare una bella scelta. Adesso c'ha 10 assessori, dice uno, due, tre, non lo so, quanti ne vuole togliere per le donne? Guardi, intanto io penso che su questo tema, sul quale io ho fatto battaglia, anche se non sempre trovo anche nel mio schieramento politico chi è favorevole alle quote, no? Io invece penso che le quote siano quasi necessarie, perché spiego cosa voglio dire. Ieri sera la Weltmüller, commentando la mia decisione, ha detto che a lei piacerebbe distinguere non fra uomo e donna, ma fra capaci e incapaci, intelligenti e non intelligenti, idonei e non idonei. Tutto ciò detto, se fosse tutto lasciato a questo discrimine, vorrei che qualcuno mi spiegasse perché io non ho scelto 10 persone capaci. Allora, e qui torno a dire perché secondo me la sentenza è giusta ed è arrivata solo un po' prima. Se noi non avessimo fatto quell'articolo, e l'abbiamo fatto noi, la mia giunta passata ha modificato lo statuto della provincia di Taranto, se non avessimo detto che nella formazione della giunta bisogna favorire la presenza di entrambi i sessi, ieri il TAR non poteva ordinarmi di ottemperare, perché non c'è in Italia una legge. Allora io, maschilista cattivo, qui sto sostenendo un problema, che l'equilibrio deve essere un equilibrio dentro la costruzione di un giudizio, che ci sono tante donne capaci, tante donne, come ha detto bene l'onorevole Giovanardi, cioè è piena l'Italia di donne nei pubblici uffici, nelle fabbriche, che non solo capaci ma bravissime. Lasciamo perdere questa discussione sul genere, che è veramente odiosa per me. Allora il punto è che se io nella mia fase, adesso tutti hanno un atteggiamento professorale, ma quando un sindaco, un presidente di provincia, che vuol scegliere la strada del dialogo con i partiti, i quali al loro interno hanno equilibri complicatissimi, e gli dicono tutti uomini, lei dice, ma alla fine un giorno prima mi mandano tutti uomini, io che mi apro cosa, la discussione a 2 giorni dal consiglio? È chiarissimo questo. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, per votare dovete andare su radio24.it o il sole24ore.com per capire se siete d'accordo con la decisione del TAR pugliese di dire alla provincia di Taranto non ci sono donne in giunta, entro 30 giorni cambiate o cadete tutti. Se volete invece chiamare 800 24 00 24, e allora devono essere rapidi. Giulio da Roma, anzi Federica, sempre a Roma. Federica, buongiorno. Pronto. Dica. Buongiorno. È a favore? È a favore o contro il TAR? No, sono contro. Contro il TAR. Perché? Assolutamente. Perché, come dicevo appunto, come stavate parlando, sono stati scelti comunque, immagino, delle persone valide. Quindi, però lo statuto della provincia dice ci vogliono garantire parità. Ma se non le hanno presentate. Sti partiti. Mannaggia, sti partiti. No, sono contro le quote rosa a prescindere, perché siamo messe. Oddio, non voglio offendere nessuno, però come ci devono essere dei disabili in un luogo di lavoro, non bisogna emarginare nessuno. Insomma, siamo esseri umani, tutti uguali. Quindi io voto la persona indipendentemente dal sesso, ma dalle sue capacità, da quello che mi dimostra. Sì, il paragone è un po' azzardato, effettivamente. Comunque, Federica, capisco il senso del suo discorso. Rimango a Roma da Giulio. Buongiorno. Buongiorno. Sia rapido. Rapidissimo. Lo so, spari le cartucce. Di Giovanardi e dell'altro. Se voi chiamate il pubblico. Dica, se no sta perdendo tempo. Dica, Giulio. Dunque, io sono al contrario di quella signora che si vede che le donne non le stima. Io sono a favore, sì, a parte il fatto delle quote rosa, perché io non metto un limite all'intelligenza delle donne. Perché io l'ho detto, ho 90 anni e c'avevo mia madre che era un'analfabeta ed era più intelligente e più acuta di mio padre che aveva studiato. Quindi ci vogliono le quote, ci vogliono le quote. Ci vogliono le quote. Io le quote non le ne, però a un certo punto abbiamo degli esempi, per fare un nome, la Marcegaglia è una donna o è un uomo? È una donna, a chiaramente, certo punto, voglio dire, ma che c'entra? È una presidente addirittura di tutti gli industriali d'Italia. A un certo punto, qual è questa discriminazione delle donne? Perché il partito, che c'entra il partito? Vabbè, insomma, certo, lei il dice... partito, se è un partito maschilista, abolisce tutte le donne. Il partito, hanno indicato i partiti queste persone ed erano tutti uomini, questo è il problema, insomma, da cui è nato tutto. Daniela Occhiali, buongiorno. Buongiorno. Lei è sindaco a Sant'Agata Bolognese. Sindaco Daniele Occhiali, giunta Giorgia Verasani, Francesca Cavrini, Erika Zambelli, Fabiana Ferioli. Tutte esatto. Il comune rosa è stato di primo. È un caso però o è una scelta ponderata? Ma dunque, come già ho avuto modo di dire in questi mesi, è stato assolutamente casuale questa formazione tutta rosa, nel senso che io sono al secondo mandato e nella mia giunta precedente avevo degli uomini e delle donne. Intendevo riformare una giunta di questo tipo, quindi con la rappresentanza di entrambi i sessi, non è andata così. Perché le persone, gli uomini ai quali ho chiesto la disponibilità, non hanno potuto accettare per motivi di lavoro. Per cui ho chiesto e ho trovato professionalità adeguate a ricoprire quel ruolo in altre donne. E alla fine abbiamo, come dire, completato questa giunta tutta femminile. Cioè, al contrario, a Taranto i partiti hanno indicato solo uomini, nonostante il presidente ha detto guardate che ci vogliono delle donne, lei gli uomini non li ha trovati. Mi sono rassicurata, il mio statuto non prevede né quote rosa né quote azzurre, quindi presumo, mi auguro che nessuno venga a chiedere in questo momento in cui la giunta è già stata formata e sta lavorando. Interventi del TAR strani, ecco, anche perché i TAR quando ci si mettono sono capaci di farne. Ma io penso che questo sia stato un errore all'inizio, nel senso che se lo statuto di quella provincia prevede la presenza anche di donne, insomma bisognava come dire prevenire. Adesso francamente non trovo giusto l'intervento del TAR, non trovo giusto la sentenza, nel senso che l'ha detto già qualcuno prima di me, sto ascoltando da un quarto d'ora la vostra trasmissione, non penso che le persone indicate in questo momento, se non hanno dato segni di incapacità, debbano essere messe da parte. Perché questo è interessante. Ripeto, è stato fatto, è interessante. Mi piace molto quello che dice, ovviamente, credo sia molto condivisibile Lina Wertmüller, non parliamo di uomini e donne ma di persone capaci. Credo però abbiamo molta strada da fare ancora su questo. Ma troppo clamore, troppo scalpore, in un caso la mia giunta tutta di donne, nel caso di Taranto quella tutta di uomini e poi gli interventi ad aggiustare. Sì, bisognerebbe dire se sono capaci oppure no, insomma, se sono capaci oppure no. Io non so, dice l'onorevole Giovanardi che le donne si scocciano, si annoiano a parlare di politica. Sono molto d'accordo, le donne preferiscono fare politica. C'è una differenza che io ho notato, è vero, le donne hanno un pochino di più, questa credo sia una caratteristica, senza volere per forza trovare differenze di genere che poi portino a valutazioni di merito, questo non mi piace farlo. Però effettivamente parlare un po' meno, insomma fare un po' di più, e credo sia una buona cosa. Sono più pratiche, insomma. Mi devo fermare qui, ricordando che potete votare ancora nella sezione bianco-nero su radio24.it. Che ne pensate di questa decisione del TAR? Insomma, il tema, come vedete, poi appassiona molto. E sulle quote rosa in politica, se volete. Anche sul sole24.com potete votare. Devo ringraziare tutti e chiudere velocemente dicendo che vi ritrovo lunedì mattina alle 7:30 con la rassegna stampa e do la linea a Oscar Giannino.